Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock FM. Rock FM. Sono le 7:30. Da pane, burro, rock and roll. Va tutto bene. Decolla l'astronave. Wow. Il viaggio sarà duro, ma lo affronteremo insieme, mano in manetta. E poi oggi il lampione crepuscolare c'è ancora. Un saluto a Paola, che ci dà il buongiorno. Oggi varca la soglia del quarto di secolo. Li merito gli auguri? Si chiede? Ma sì, auguri. Andrea scrive solo, che sballo. Ruggero, buona giornata uggiosa. Ciao, buona giornata anche a te. Lucia, adesso mi confesso, scrive, lo voglio sposare. Roberto Fricantoni, mi sono innamorata di lui. Lucia, la redazione gira il tuo numero a Fric, ok? Salutiamo anche Dome, non ho la patente, non sono un rocker, ma i test attitudinali li supero tutti. In che nicchia mi collocate? Sai che non lo so proprio. L'ultimo saluto a chi mi scrive. Belin, proprio una giornata da Riders on the Storm. Com'è finito il sondaggio su Halloween? Saluti Rock. State qui, che oggi scatta la campagna nuova. La nuova campagna di pane, burro, rock and roll. Non ci sta. Che c'è? Non andateci al lavoro oggi, restate con noi, fidatevi, sarà una grande puntata. John Bon Jovi. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, living on a prayer. Spons, Ed è con un vagito che vogliamo iniziare quest'oggi la rubrica dei compleanni del giorno. Cos'è questo? Un vagito. Sì, un vagito. Perché nel compleanno del giorno la metafora è carina, dovremmo usarla più spesso questa... Una sigletta. Ue era il 25 ottobre del 1838 quando nasceva Georges Bizet. Ah, la Carmen. Chi? No, George. George si compose la Carmen. No, George si chiamava, non che era un uomo. Benissimo, passiamo allora al 1881. Quando nacque? Il grandissimo pittore, colui che rivoluzionò tutta l'arte del mondo, Pablo Picasso. Ma che grande, grandissimo, meraviglioso, l'inventore del cubismo. Esatto, esatto, la scomposizione di una faccia, per esempio, di un corpo, di una visuale in tante parti diverse. E a proposito di compleanni, da un grande della pittura passiamo a un grande uomo... Proprio dal vero, nel senso che era gigante, una montagna che camminava, così lo descrivevano le persone che hanno avuto l'onore di incontrarlo, Primo Carnera, che nasceva oggi nel 1906, il celebre pugile italiano che vinse in America. Il gigante buono che conquistò tutto il conquistabile, che divenne il grande dei grandi nel pugilato internazionale. Un friulano alla conquista del mondo. E quest'oggi tanti rocker sono nati velocissimamente. Ricordiamo il cantante degli Yes, John Anderson, nel 1944, Glenn Tipton, chitarrista dei Judas Priest, Matthias Jebs, nel 1956, degli Scorpions, chitarrista, e chiudiamo con Chad Smith, il batterista americano dei Red Hot Chili Peppers, nato nel 1962. Quanti rocker! Ah, quanti rocker, dal 1944 al 1962, pensi? Che carellata straordinaria! E beh, che c'è? I'm so up for her, she's so... Che preferisco nella diretta di Pane, Burro e Rock and Roll, caro Freak, il contatto col pubblico, ancora più se il pubblico giovane, i ragazzi che vanno a scuola. Un grande riscontro, avere a che fare con l'anima giovane del programma. Sento il collegamento già pronto, dobbiamo tirare le orecchie al nostro piccolo Francesco. Bentornato, Francesco! Eccolo qua! Francesco! Allora, patti chiari e amicizia lunga, la devi smettere di fare la testa calda. Sei eh? Una calamità, Francesco, sei un tornado. Ma ci vado a scuola, bene. Ah, oggi vai a scuola? Non sì, mi sa di sì. Non fai la solita tiritera che te ne inventi una delle tue, eh? Promesso, mamma, giuro. Oh, no. Così. Ma pure la carrozza o la macchina? Bravo. Macchina bassa. Bravo, poi a scuola. Poi a scuola. Dove sei scuola. Adesso, Francesco? Adesso sto in macchina. Aspetta, oh ragazzi, mi sa che vi devo salutare, c'è un'altra telefonata, aspettate, un attimo. Un'altra telefonata? Un'altra telefonata. Pronto, è un amico mio, Ah. Aspetta. Aspettiamo, sì. Pronto? Sì, mi mena, sì, mi picchia. Forte, ma forte delle volte. Eh sì, non mi fanno a scuola. Francesco, con chi stai parlando? È un amico mio, non mi preoccupare, raga, mo arrivo, un amico Francesco, mio. Ma chi dici? Ma chi ti picchia? Ma cosa stai dicendo? Niente, non mi preoccupare. Ma non mi vuole fare una scuola. Ma non è che venire qua subito. Adesso sto in via Gonzaga. Mi viene a prendere, mi sta a picchiare. No. Mamma mi picchia. Francesco, ma cosa stai? Ma con chi stai parlando? Ma chi ti picchia? Chi ti viene a prendere? Stai facendo delle affermazioni gravissime. Non ti preoccupare, amico mio, il telefono azzurro. Non ti preoccupare. Il telefono azzurro. Ma stai dicendo delle cose gravissime al telefono azzurro, Francesco. Ma Frick, dai, ma non rompere le scale. Dai, ci sentiamo domani. Ciao. No, non attaccare, non Francesco. Ha attaccato. Francesco. Ma guarda questo che telefona al telefono azzurro. Ma dove? Chi avrà denunciato? Per me denunciava qualcuno. E certo, la mamma, Freak, la mamma. Terribile. Speriamo non noi, non Pane, Burro e Rock and Roll. Speriamo. Take me to the magic of the moment. I'll live long. abbracciamoci forte, amici, stringiamoci questo abbraccio affettuoso, dicendoci così teneramente nell'orecchio, sussurrandoci: dai che gliela fai, dai che gliela fai. 7:49 minuti primi e sta per avvenire, stiamo per fare un altro piccolo ma grande passo dalle frequenze di Rock FM. Io vi avevo ampiamente avvisato che la puntata di quest'oggi sarebbe stata pregna di contenuti. Pane, burro e rock and roll all'alba della 117esima puntata. Sapete, siamo delle teste calde. L'Ariele, Spadino in regia, Roberto Fricantoni e la nostra redazione. Non perdiamo occasione, se si può, mettere in piedi così, da un momento all'altro, una bella campagna contro qualcosa. Essendo noi dei rocker, da contratto stiamo fondamentalmente contro. Nella puntata, nella diretta di ieri, vi abbiamo chiesto, ad ognuno di voi di esprimere il proprio commento sulla festività di Halloween. Avete risposto tantissimi, abbiamo fatto un record di accessi di SMS e il 95% di voi si è dichiarato, si è detto contro la festività di Halloween. Non tanto perché abbiamo qualcosa contro Halloween, ma abbiamo respirato che il mood che c'è là fuori è lo stesso che respiriamo qua dentro. Siamo in squadra insieme, ormai è ufficiale. Noi si è contro così, come presa di posizione. E allora è un piacere, dopo aver lanciato da questi microfoni la campagna contro la morte della cartolina postale, all'alba delle 7:50, proprio oggi, il 25 di ottobre, Rock FM, Pane, burro e rock and roll, perché non vorrei mettere in questa cosa anche i miei colleghi. Pane, burro e rock and roll non ci sta. Questa è la nostra nuova campagna, costruita grazie a voi. Spettri, fantasmi, zombies, zucche intagliate, fastidiosi adulti vestiti in modo sconveniente, improbabili serate in locali notturni. Anche quest'anno, tra poco, le nostre città verranno invase. E tutto per colpa di una festa che affonda le sue radici nella tradizione anglosassone. Halloween. Ma pane, burro e rock and roll non ci sta. E scatta la campagna a favore di Ogni Santi. Auguri in anticipo a tutti coloro che un santo vero e proprio non ce l'hanno. Buon onomastico a Abaco, Acilia, Abdone, Arabella, Agapito, Argelia, Ampelio, Asella, Archippo, Aza, Baldovero, Bassilla, Baldovino, Belina, Barsimeo, Berenice, Bonaldo, Brigida, Bonito, Brunilde. Rivalutiamo la festa di Ogni Santi. Riappropriamoci delle nostre tradizioni. Install microwave ovens, custom kitchen delivery. you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Ooh, and money for nothing, chicks for free. Money for nothing, chicks for free. Ehi, Frigo, finalmente ci siamo! Ci siamo per cosa, Rogna? Ma per la conquista del mondo, Frigo! Gli umani sono alle corde! E perché? Perché hai dato una sbirciatina a una rivista scientifica e ho saputo che tutte le città degli umani stanno crollando sotto la morsa dell'inquinamento! E cioè lo smog ucciderà tutti gli umani, Frigo! Li ammazza tutti! E noi, Rogna, che fine faremo? Noi, con tutte le robacce che ci hanno iniettato, siamo fuori pericolo, Frigo, fidati! Hai mai sentito di un umano che si è sparato tutta la roba che ci siamo sparati noi? No. Appunto, ci abbiamo anticorpi, lasciamelo dire, con le contropalle, Frigo, fidati, la vittoria è nostra ed è vicina! Anticorpi con le contropalle, ficata! Fichissimo!